si chiama il cambio manuale. Dai, facciamo girare, sarà Giulio, ci sei, riprendi. Si chiama che sarà tu Giulio, ciao ciao. Sì, sì, aspetta, voglio riprendere anche tu. Cappa. Io a me mi ero proposto uno di chi sta Delta, ma a me non mi piace, come modello non mi piace, è una cosa maria, non di chi scaldini ma la macchina, era fatto così, dici, non so se l'avevi visto quelli scaldatori per la macchina, poi ho uno scaldatore, in più c'è uno scaldino di macchina, asciuga capelli Maria, a me non mi piace. Magari la funzionalità è anche buona, eh. Anto, di Savetta ce ne sono mille tipi lì. Quello che c'è tu, Dani, qual è? Quello col quello col tubicino cromato che si sollerra. L'ho modificato qua, no, non mi piaceva quello. Gli ho messo la secca nuova con la qui c'è spugna che vai ad anarsi. Con quello lì davanti nuovo. E il capo nuovo gli ho messo, che era tutto quanto rovinato. Comunque ti ho mandato messaggi, fammi sapere. Già li ho visti i due messaggi. O parlo uno o scrivo l'altro. Scrivi a Luca, scrivi. Poi mandami la foto, voglio vedere questa modifica che hai fatto. Capito, Anto, di Savelta ce ne sono tantissimi. Ce ne sono tanti e sono magari quello che hai visto tu è un modello che non ti piace. Ma il modello è quello semplice, quello a tubo che si solleva. È molto bello e poi funziona molto molto bene quello lì. Chi dove Maria lo scaldino di macchina mi Maria? Già ho capito che te l'ha mandata quella foto, non piaceva neanche a me. Però ti ripeto, di Savetta ce ne sono vari modelli e funzionano molto molto bene, soprattutto con i baracchini, col Saturneco, col Galaxy, vanno molto bene, capito? Sì, lo metto in dubbio, magari era anche buono, però come modello a me non mi piace. Vabbè, sì, questo modello qua. Questo modello qua, vedi, questo è molto bello. Questo modello qua è molto bello, sì. Aspetta che te la mando anch'io. Vedi, questa è un Savelta, guarda che si è uguale a quello che ti hanno mandato la foto. Esci a vedere. Agita, barò, agita un attimino, bombolo, dove sei? Eccolo qua. Guarda se è questo qua, questo è molto bello, questo signor microfono anch'io. Molto bello, oddio. Già va bene. Cosa siete vendendo? No, Savelta c'è Danilo. Ma non è come quello che hai visto tu, questo è completamente diverso. Cappa, ma è come modelli, non mi piacciono molto. Magari funzionava a mille per mille. Però non lo so. Asco, cos'è? Savelta Master Plus, quello con l'ecco. Danilo ce l'ha, vai Danilo. Sì, è quello con due Smithers. Con due Smithers, ciao Dani. Sì, questo è il Master. Ecco Master. Ecco, è quello che c'ha le calecca, no? Io ti mando la foto, ci fermo prima. Dani, ci esce bene questa parecchia, secondo te? Cazzo, non hai sentito a Gianni Loppiolo mi corso a vetta come esce. Luca, guarda che l'ho usato anche un po' di volte col Galaxy. Mi hai sentito un po' di volte tu con quel microfono. Sì, è carino questo, mi lupi a dire che con quella radio c'è un bel bene. Sì, c'è un break, avanti. Allora c'hai un segnale di 9 quasi più 10 ma sei tutto saturo. Idem con le patate. Idem con le patate, vuol dire uguale a quello che ha detto Massimiliano, anche se sembra che c'è una patata in bocca comunque, sei saturo a morte, il segnale qua è un po' più basso, 9 più 5, però sei saturo, avanti bombolo. Capo, io non ho guardato, prova a vedere che ti arrivi in onghi. Thank you. sì, Santiago 7, e la radio è così, non è molto comprensibile. Allora prendo io il timone, dai, va bene, va bene. No, mi volevo ricollegare al microfono che sta dando Danilo, che esce molto bene quello lì, no? Luca. Pensa a te, un bel microfono. Non so, ma poi io Danilo l'ho sentito col Galaxy. L'ho sentito col Galaxy, capito? Ma c'ha le connessioni del Galaxy ancora, Dani? Sì, sempre quelle lì, cioè, non glielo non ho ancora toccato. C'ha sempre i 4 pin e basta. E quante sia la connessione del Galaxy, perché la connessione del Galaxy va bene anche al coso, a quello che c'è Luca, capito? Hanno la stessa connessione, quindi è già pronto da usare. Sì, sto guardando la radio di Luca, se la vuole mettere in questa radio va bene come connessione. Sì, sì, è già pronto, è già pronto. E poi esce molto bene col iPhone, sapete, esce molto bene. Col 3009, col iPhone, col Galaxy, con tutti i baracchini esce bene, io l'ho avuto. Non quello con lei, con l'altro, capito? Però è un ottimo microfono. Avanti, Francesco, non lo so, o abbassi la potenza o fai qualcosa, davvero, sei molto molto saturo. Sì, sì, io ti sento, Santiago 7, Radio 5, adesso non sei saturo. Massimiliano. Prova, Francesco, qua sì, Santiago 8, Radio Super 5, perfetta. È meglio così che quando attacchi. Eia, va bene, dai, rilancio a Momo, lo vai a tu. Capo, qua è sì, però, cioè, ha migliorato un po' di radio, dai, Santiago sì, qua da questa parte. Ma dove vai, Francesco? Da dove vado là? Da Osilo, per caso. Eia, tu. Cazzo, ma la radio è allucinante stasera, cosa hai fatto tu? Niente, sempre così, Aspetta che te ne scenda, che... Sempre così. Hola. E a chi? Ecco, un po' meglio. Scappa, gappa. E scende quello fiato di fa, va bene. Va bene, ok, vai Dani, riprendi. Sto parlando, mandando messaggi a Luca. Vai, continuate. Ah, ok, là, va bene, va bene. Sì, Francesco, lasciala così, almeno anche... Cioè, perlomeno qua da me arrivi benissimo, Ma tu non avevi anche una radio che usciva bene, tipo... Adesso non so se mi sto confondendo io e se sei tu, Ma tu non avevi un Petrus, mi sembra, tipo i Galaxy Saturn, ecco, una cosa del genere. Ma poi ce l'avevo, Francesco. Dani, rispondi al messaggio. Vedi, quello secondo me è meglio di questa che c'hai adesso. Capito, Cla? C'ha il Petrus, c'ha tipo questo, va, tipo il Galaxy, che poi è uguale a, mi sembra che abbia 120 canali quello, o 240, boh, ma non mi lamento, però non ha frequenzimetro, però è la stessa radio alla fine. Vabbè, c'è la stessa radio, però non deve essere stato più bello, con frequenzimetro c'è altre cose. Va bene, no, ma già funzionano bene quelle radio, ma io l'ho sentito sempre bene a Francesco, non c'è problema. Quando attacca c'è sempre questo abbinamento che non riesco a capire cosa cavolo sia, che fa saturare la modulazione, basta, tutto qua, capito? Dani, rispondi al messaggio. Eia, ti ho già risposto adesso, Cla. Cappa, vai Anto, riprendi. Cappa, già va bene, coso. L'amico di oggi, allora... Io non è che lo sento forte, poco qua lo sentivo più forte, ma la radio non era un granché. Ui, quanto mi tengo male stasera. Un raffreddore terribile ciò. Fatti mettere la supposta, tu. La tua morendo la supposta. Ma cosa? È una pastiglia, Senza posto di bere la mano, cambi il banco, lo sacca su giamba. E poi della dura. Che sciocate. Allucinato. Francesco, cosa le dici tu? Quindi fammi capire, col permesso del question. Tu praticamente quando attacchi lineare quanti watt li stai dando d'ingresso? Quanti watt sta uscendo quella radio così come la stai usando adesso? Quanti watt sta uscendo? Circa 5 watt, poi non sono sufficienti. E che lineare stai usando? Solito tran tran. Allora, quella radio tu la devi portare a 3 watt se la devi usare con quel lineare. E stai tranquillo che non salterò più. 3 watt. Perché quel lineare, se tu le dai più di 4 watt, ti salterà la modulazione. Nonostante abbia un finale MOSFET, si dice. Non so. Io non ho di questi problemi, non so perché, ne sento tanti che hanno problemi con 747 che le salta la modulazione. Io quando lo uso con l'Elbex 747 che regolo la potenza perché è regolabile, non c'è bisogno di abbassarla da dentro, è regolabile, la metto a 4 watt, non mi satura, nel modo più assoluto, va bene, non lo so, non tutte le radio sono uguali. Comunque quella radio portala a 3 watt e vedrai che risolve il problema. Avanti Massimiliano. Ma lui c'ha un 737, non ce l'ha mica il finale a MOSFET. Bravo, infatti aspettavo che qualcuno mi correggesse, perché io ho 747, lui sta usando il 737, non c'ha il finale a MOSFET, allora devi abbassare la potenza a 3 watt, se no è un casino. E io direi via lampante. 747 è molto meglio, infatti. Adesso mi stavo confondendo nel confondermi. 747 è il finale a MOSFET, 737 no. Nel momento che incide la delta G, capito? Vabbè, vai Massimi. Sì, volevo capire, Francesco, ma invece quella radio di per sé quanto esce da sola? Vabbè, ma il 737 non va bene con quella, non si sposano bene, capito? Per avere 30 watt conviene uscire così come sia adesso, che sta andando bene. Ok, avanti. A chi tocca, là. Dai che vi ascolto, mi preparo per portare il cane, raga. Non mi sono accorto, sono già le 8:20, comunque sono qua, 10 minuti poi ritorno. Avanti, Antonio Riserva, vuoi entrare? No, Cla, sto finendo di saldare, dai, ci sentiamo magari dopo. Eccomi, questo è gol 747, ebbene, satureggia. Hola, hola. No, Antonio, non satura, ciao Antonio. Satura, il 747 va bene, tanto va benissimo, da una settantina, 80 watt, va bene. Capa, no, non l'avevo attivato ancora, eccolo qua, prova se va bene. Benissimo, 9:10 radio 5. Capa, cra, va bene da te. Claudio si sta avvertendo che sta mettendo le mutande e deve andare a portare il cane. Capa, un radio, va bene? Ora tre prova, guarda a vedere. No, secondo me sono di più che si fatte, sei sicuro che siano veramente 5. Ma strumento esterno non ne hai? Va bene, là. Ok. KK. Vediamo un po', Luca lì, ci sei ancora, Danilo, buh, qualcuno, ci siete, sì. Tutti muti, insomma. Va bene, riprendi a tu. Sparito. Va bene, ok. A me bene mi ascolti, Francesco. Ok, io sono liscio sempre. 2 watt, una ventina modulati, 2 watt di vite bianca e 20 modulati più o meno, dai. È un Turner più 3B con Saturnecco, ok? Cappa, dai, bianco che è pronto a mangiare, ci sentiamo dopo, ok? Cappa, ciao a tu, buona carichetta, vai Francesco. Ehi, me l'hanno già venduto. Già sei tutto, che io ho parlato con quella persona che tu sai, dai, va bene. Mi ha detto che riferiva anche a te. Ma non lo so, io ho fatto una chiamata, Claudio si sta vestendo, Danilo stava messaggiando con Luca, Luca non ha più ripreso, Antonio non ha più ripreso, l'altro Antonio sta mangiando. Va bene, dai, va bene, ok. E quindi anche io allora mi stacco, me ne scendo giù. Niente, dai. Francesco, quella è un'occasione da non perdere. Peccato, vabbè, comunque. Già va sempre in quelle zone. Dai, io sto andando a portare il cane, se mi avete chiamato, ci sentiamo dopo se ci siete. Per il momento vi saluto, ok? Vai, Cla, tranquillo, no, io adesso mi faccio un altro paio di passaggi con Francesco e poi anch'io me ne scendo giù, che c'è mia suocera, se no, no, li lascio da soli, dai. Avanti, Francis. Va bene, da Francesco, già ne hai altre cosettine, no? Più avanti, quando sarà, magari ti fai fuori qualcosa di più vecchiotto, là, e ti prendi una cosa più carina. va bene, anche io, dai, ho Francesco, mi ha fatto piacere, chiudo. Se senti quella persona, salutamela, gli ho mandato un messaggio, grazie a Dio. C'ha WhatsApp che l'accende quando vuole lui. E niente, dai, ci sentiamo. Ciao Francesco, ciao a tutti chi sta ascoltando, vi saluto a tutti, ciao ciao. Gira, gira. cazzo, sempre qua qui so io. Ti ho detto che a casa non c'è nulla da bere. Cosa mi così di bere? Ho solo acqua. Cazzo, boh. Quasi un macco. Boh. Io bevo acqua, forse non ne capisco niente. Siamo bere vino, bevi vino, fa culo. A un certo punto, cosa devo dire? A un certo punto, boh. A un certo punto. Boh. Io non ti capisco. Per fare un consiglio, solo acqua da bere. Cosa posso bere? Ma cazzo, a un certo punto cosa? Ma no, no, vabbè, là. Io ti volevo fare una proposta, pagando, mi si importavi un po' di birra qua. E dove vado a comprare? Scusa Radu. Oh, capottata. No, no. Capottato non c'è niente. Comunque, non me la fotti un da me. Di queste cose a un certo punto, quindi a un certo punto se vuole bere vino, bevo vino, so fa come vuole voi a un certo punto, sì, birra, vino, quello che è, chi se ne frega. Ah, che buon po', ti ho detto che non c'ho nulla qua, cazzo soldi, sì, boh. Sì, i soldi ti chiamo gli apparecchi, vi raggio me, non c'è comprare da un morso. Certo, non c'ho nulla da bere, cosa mi consigli? Se no me ne porti tu un po', te ne pago, non c'è problema, mi sono problemi, me ne porti, boh, due, tre, quattro lattine se ce li hai in più, e te ne pago, poi te le compri tu lunedì, martedì, o domani sei aperto, io sono a piedi. Vabbè, dai, non so che coglione, dai, va a fare un culo. Ma vengo io a prendermi, ne hai da darmene. Cazzo di abbo. A un certo punto che... Nulla gli ha fatto. Eh sì, è così. È così. Oh no, dai, sto minandomi, aiuto. Non mi sta bene, cazzo, aiuto, Luca. La verità. Non mi sta bene, cazzo. A un certo punto. Boh, vabbè, Rise, tu ne hai birra da prendermi, Antone? Rise, ne hai tu? Pagando, ne hai? Ma se vieni in gas, te ne pigli due gasce, se ti va, te ne metti a domani a mangiare. No, ma siamo pieni di bottiglie, però non sono andato a comprare, sto arrivando, Antone, dammi il tempo di mettermi le mutande. Cazzo, arriva a fare quello che si è per tempo, no, si ha detto, a un certo punto. Non ti ripassa nulla la lingua, eh. E che cazzo, a un certo punto, basta, a un certo punto, ma... Lo scherzo, ma a un certo punto, basta. A un certo punto, Ma scusa un attimino, buon po', cazzo, ma che ti... Boh, fa... Vabbè, ho capito. Vabbè, a punto di dì, fregate. Non ti devi niente, a punto di dì, fregate. Non ti niente di che cosa, ma... Cazzo, ma così o cosa? Cioè, che sono fa... Ma che l'ha fatto nulla? Basta, non mi ha fatto nulla. Non vediamo niente, ma non ti comprendo, veramente qua. A un certo punto, lui lascia perdere. Ma cazzo, tu! Ma che stavo a fare fuori, vabbè, non parlo più, come è finito? Ma sei parlato in 40, chi è l'altro? Ho detto, però anche tu Antonetto, vedere. Sì, stiamo mettendo la portante, Marco. Ho detto, a un certo punto lasciate perdere tutto, Allora, c'è riceve birra, io nel trasloco ho trovato due cacce. Lui, te le porto o c'è lì a prendertele? Non capisco più, Antonio, cioè qua c'è... sta venendo l'Alzheimer, boh. Oh, se ti la vedete, uno è andato all'altro, impressionalmente. Sì, sì, è così che funziona. Dai. Oh. Dai, che più ne ha più ne metta, buonasera. Ciao Tino, ciao. Lu, se ti servono te le porto un paio di bottiglie a me. Luca, Luca, vero, perché quando è giù non c'è niente, va bene. Vabbè, se ti servono tu fammi sapere, mandami WhatsApp e te le porto. Comunque se volete mica ve la porto io, se volete, guarda, grazie. Quindi ciao. Che cavolo, ogni volta sempre le stesse cose, cavolo, mamma mia. mia, cazzo. A un certo punto io le bavo piene, cazzo, di questa storia. Aiuto. Ma non sono anche per te parlando, io sono entrato adesso. Ho sentito Luca che voleva qualcosa da bere, se la vuole io ce l'ho a porto. Sì, ma ho capito. Ma a un certo punto, cazzo, basta, cazzo, con queste cazzo di soldi, cazzo, con la birra, birra, basta. Io sto bevendo birra adesso. Scusa, a un certo punto, cosa devo fare, cazzo? A un certo punto, prendo, cazzo, e ce la butto giù, a un certo punto, ah, va a far culo, cazzo, va a far culo, cazzo, va. Io lo sarò l'altra volta, cazzo. Va a far culo, cazzo. Non è possibile, guarda. Sempre le stesse identiche cose, cazzo. Solo, esclusivamente, per rompere le balle, per... Già lo sai anche tu. Vabbè, ma posso entrare anche io ogni tanto? Mi sembra un falcone ora. No, no, io sto chiudendo, non mi interessa. Ciao a tutti che vado a cenare, ciao. Ciao, Fla, ciao Antonio. Ciao, sì. Mi fate incazzare a Pompugno, ma insomma, dai. Tu sei, chi gli ha chiesto la birra? Io me la sto bevendo, non me ne può fregare di meno di quello che pensate voi. Oh, io lo so, davvero, me. Oh, è entrato così, mille bip e poi incazzato nero. E che purtroppo non si può uscire, sennò sei andato anche pure a berla. No, fino alle 11 puoi uscire, anzi oggi puoi uscire proprio. Ah, ti sembra così, in pratica non puoi uscire per niente, il discorso è quello. Sono problemi tuoi. Domani, non oggi, domani. Buonanotte Antonio, se l'ho detto appena adesso, ho detto fino a oggi puoi ancora uscire, domani no. Appunto per quello, in pratica esci domani, fai quello che ti piace, non c'è nessun problema. E siamo a posto. Dite una cosa, Antonio, ma domani in zona sei? No, domani sono invitato da mio fratello. E allora non fa niente. No, potevi dire che magari ci siamo organizzati oggi. Eccomi, io oggi soggiorno a casa, tu sai benissimo che sto organizzando il container, quindi stavo facendo due tavoli a L per l'appoggio della queste cose, capito? E poi dovevo finire, quindi sono a casa. E domani è idem, credo. E vabbè, vedi, se oggi mi chiamavi io ero tutto il giorno in campagna senza fare niente, arrombato. Sì, no! Ehi, Lu, un attimino, scusami. Ciao comunque anche a te. Tanto, io sinceramente, guarda, sono uscito stamattina, ho accompagnato i bambini a scuola e poi direzione qua a casa per fare queste cose. Credimi, avevo la testa impegnata a fare quello che stavo facendo, mi è volata la mattinata, non me ne sono neanche accorto. Però anche tu, un colpo di telefono ogni tanto a testa che non puoi tirare. Dimmi, Luca. Allora, pagando, Mi puoi fare una cortesia? Beh, se una cortesia è una cortesia, non si paga. Dimmi cosa, se posso aiutarti. Ma fa un tempo un pollo che ti offendi, Allora, io mi sono preso la pizza, praticamente piccante. Ok, ci sei? Ascoltami bene, Sì, me lo provo anche io, dai, devo uscire. Praticamente non c'ho roba da bere, c'ho solo acqua. Se potevi portare, una ventina di bottiglie di birra. Una ventina, devo andare in banca a prendere fare, perché c'ho i soldi giusti per la pizza, lo sai che sono così io. Ah vabbè, grazie lo stesso. Tu Antonio, vabbè, sei lontano, vabbè, tocca a Biela allora, cazzo. Mi sono dimenticato di comprarmela, a me mi piglia un'ansia. C'ho una chiamata di whisky, ma non va bene con la pizza. No, troppo dolce. Ci mangio con peso, quanto cazzo è peccato che la pizza e vuole 20 ampulle di birra. Ma sai cos'è? Che una volta che c'è lui e vado io, e ci vediamo assieme. Allora, ho capito quello che vuol dire Antonio, ti riporto in pratica la birra io e è capito a casa sua e quindi io cosa è rimesso. Siccome io, cioè, a me non me ne frega niente, a un certo punto di portargli la birra, quindi a un certo punto chi se ne frega. Tanto, come si dice, no? Si chiama al telefonino, che ti portano tutto a casa, quindi a un certo punto qualcosa che è, così c'è, no, non è possibile, cazzo, ho visto un coso, gli ha fatto un possibile. Antonio, ho pensato la chiusura dei circoli di domani. Quindi, a un certo punto, cazzo, ho visto un Fantomas, quindi io lo porto a cazzo, il Fantomas io lo porto a cazzo, a casa, allora, e siamo a posto, quindi qual è il problema? Non racconto mio, no, racconto il Fantomas. Dopo me ne viene in giro, ho capito. Fantomas, cazzo, a un certo punto, cazzo. E poi ho fatto io, guarda, fregatene, chiama Fantomas, non ti preoccupare, sono pronto a casa. Allora, io ti ho chiesto un favore, ti ho chiesto il culo. No, a me il culo me l'ha chiesto, la verità. A parte un po' prima cosa, quindi, a un certo punto, quindi, chiama Fantomas, allora che ti porta via, cioè ti porta almeno cosa, pizzeria, quello che è, tutto ti porta, non c'è problema, e siamo a posto, io sono veramente contento, guarda la verità. Ma io non voglio diventare, perché fai? Cosa c'hai? No, aspetta, cra, un favore, ed un effendi di tragica, ogni volta che pompone chiama un favore, lui lo fa sempre tragica. Certo, se voi salgo io, non c'è problema, ne hai da, te la mago, non ve ne è problema. Ma tu cosa, me ne vuoi dopo. No, tu fai sempre il tragico, sempre, ogni volta fai il tragico con me, sempre il tragico, va bene, vabbè. E ti troviamo di persona, a te me lo spieghi perché fai il tragico. Sì. Io ho paura di te, mi pompo, perché capito, che ho paura di te. Assolutamente quello no, già lo sai anche tu. Ah, io ti ho chiesto un favore, non ti ho chiesto altro. Mi fai parlare male, ti ho chiesto, tu mi dicevi no, boh, fritta lì, no, sei macco, sei così, ogni volta fai così. Vabbè, ok, d'accordo. Ma sei fatta a metà l'ora sei fatto stasera? Boh. Vero. Ah, sì, boh, non possiamo chiedere un favore, a chi non glielo ho chiesto, ma non c'erano soldi, boh, finita. È colpa mia, vabbè, è colpa mia. Lontano, a Claudio non è che lo perché non lo sta più bevendo, ma che la posso domandare questa cosa, nessuno. Ma per carità, ho parole. Ascolta, fa una cosa, scendi giù dove dovevamo bloccare e parli a nome mio, già te la dà, qua, poi già posso io a pagarla. E dove ti? No, ma ce la pago io dove? E dove dovevamo bar noi, no? Oh, ho capito, dove ti? Dove parlare mio padre? Ah, ehi, vabbè, la sa, guarda, arrivo subito, no? E poi mando anche la foto a Pomponi su WhatsApp. Sì, ho capito. No, vabbè, però. Ma se a parte gli scherzi, un Pomponi non si può scherzare, che è un bel permaloso, ma per carità, che... Ma non è peggiorando, sta invecchiando e peggiorando. Grazie. L'importante è invecchiare bene. Allora, la stessa domanda l'ho fatta, arrivo, la stessa domanda l'ho fatta a Antonio, l'ho fatta a Tino e non mi hanno risposto male, tu ogni volta mi rispondi sempre male. Io ti ho detto, Lu, che se voglio qualche bottiglia ce l'ho, te la porto, non ho problemi. Ecco, una volta che riapparete, può portarmela, dai. Ok, c'è una casa qua. Va bene, dai, metto le scarpe, ma potevi dire prima che veniva giù Bugatti. Va bene, sto scendendo, ciao a tutti. Io ho visto i ragazzetti, Barommi, non ti posso entrare. No, no, io voglio i ragazzetti. Io sono stata mutando, ancora stasera metto le mutande e poi ti apro la porta. Va bene. Andiamo un attimo, ragazzi, tu a Claudio, riprendi tu, Azzardo. Sono sul caldo. E quasi mai niente. Chris, una pizza buona, in barca, buonissima, antropropola, buona veramente, è una meraviglia, e martedì sono tutti a 4 euro. E dov'è? Il barca è lì, se vuoi ti mando anche il numero su WhatsApp, è lì alle luci gialle, veramente buona. Ascolta, è buon impatto, le prende. Non lo so, prova a chiamare Antu, ti lascio il numero, se te lo passo su WhatsApp e chiami. Aspetta Antu, che devo andare anch'io a prendere la pizza. Dov'è? Le luci gialle. Ehi. E come si chiama? Il barca. Il barca. La barca. No, il barca. Così mi ha detto al telefono. Boh. Non bisogna prenotare. No, abbiamo chiamato alle 7 qualcosa, 7 e mezza, alle 8 e un quarto erano qua, 8 e 20. Fanno anche servizio a domicilio. A me sa che è fuori porta, tu sì, ti fanno pagare di più, vabbè, ma vengono comunque. Fuori porta, sono vicino io, in confronto. Vabbè, ma non voglio lì in campagna, vabbè, poi va a chiamare, ti telefono, buone veramente, va, buone. Riparto e squisito, poi cotte al forno a legna. Mandami il numero. Ehi, la posso, ma. Sempre mai niente. Aspetta, mi è arrivata la bolletta da luce, che è 250 euro. Minchia! Vede. Aspetta, che guardo di che mese è. Tu hai quel vizio maledetto di lavarti. Ho quel vizio di... Aspetta un attimino. Vabbè, comunque se tu consideri che io qua ne pago 2120 e ho comunque il riscaldamento, cioè la caldaia, l'acqua calda ce l'ho col gas, quindi alla fin fine non è che stai pagando tanto, tu comunque c'hai il pozzo, io pago anche l'acqua. No. Io dicembre 2020, gennaio 2021, ma questa comunque 250 euro, cioè, aggiornata sul telefono, come fa un raio? Perché voi a Natale vi siete lavati di più sicuramente. Bello, come dico a Sino, è bello. Ma la parola di pizza devi andare a prendere. E allora tu, oggi ho voglia di cucinare. Sì, ma solo te mi zaga di pizza. Sì, e non la grattiamo, la faccio a taglio. Io sono magni di Ritz. Ritz? Ritz, di marcia. Davvero? E allora, qua non è proprio nessuno di mangiare, chi a dieta sono te. Allora io volevo farmi gli spaghetti agli uni, no, li voglio. Fidanza, non li voglio, ti avranno due bicotti, vaffanculo. Vabbè. No, io ti ho ordinati per la prossima settimana, se vai in porta. Così, come si sono vissuti a dieta, te? Perché fa un po' arriva il caldo, sai. Però se infatti arrivi un caldo, qual è il problema? E sudi. Appunto, qualcuno ti fa trovare pronto. Aspetta che mi avrei fatto un messaggio. Deve essere quello di Luca, non lo trovo. Il telefono in mano. Vediamo, WhatsApp. Sì, dovrebbe essere lui. Se prendiamo un impasto, ne ho un po' da smerciarmene. Non so che settimana prossima me la prego. Oh, altro ti ho mandato il numero, anche a Tino. Così li chiamo, se prendo un impasto, così me li faccio fuori. Quelli che danno a Michele in ospedale. Sì, mi è arrivato lui. Adesso vedo un po' perché che ne so, 8 e mezzo, devo uscire a. Sembra direttamente, non è fatto un momento. Ti conviene che chiami, mi fate progressare, magari te le prepara se non c'è grossa affollamento. Non lo so, adesso vediamo, perché sennò diciamo che faccio scendere la gabbia perché sono le pantofoline, sai, poi ho lavorato qua a casa e sono stancato, sono fatto appena la luce, ho detto messiero un attimino, vedo un pochino cosa c'è in frequenza, però te l'ho fatta pure. Tu stavi affettando salsiccia, della verità. Andiamo. Quella stamattina, cazzo, buonanotte, quella stamattina. Adesso sono quasi pronto, devo fare solo, come si dice, provare se tutta la bella che ho fatto tiene la temperatura ideale per la stagionatura. Ah, quindi devi preparare? No, io credo che questa settimana inizio. Sì, no, mi assumi, vengo a darti una mano. Io non ti posso pagare, Luca, a meno che quello che vendiamo ce lo dividiamo. Quello che vendiamo però assieme. Sì, ma si può fare anche così, non è problema. Tra l'altro, solo io posso investire. Io se vuoi vengo con lo stecchino a farlo annusare. No, c'è un mio collega lavoro nuovo che sta lavorando con me ed è campagnolo, quindi ha una bestia da fare. Ma te la facciamo metà io e metà lui, ma adesso vediamo, credo di sì comunque. Comunque già lo sai, no? Già lo so, ti ho messo già in considerazione. Anzi, ti ho preso in considerazione, non è che ti ho già messo. Io già lo sai che eravamo già a fette. A fette grosse o fini? Oh, questi biscotti sono pieni di dipendenza, eh. Se l'hai fatto buona cattura. No, ma Pompone un morso, eh. Ma ti hai detto cosa, poverino? Se ne ho preso, vedo che si è gonfiato. Come così? Poi sta lì, cazzo, mi offende se Marco, cioè, ma sarà giù buono Marco, non è un problema, ma loro fa sempre, mi offende sempre, ma anche sbagliato, cioè, cosa, boh, io cosa metto di male, perché ti una bottiglia di birra, se potevi, io sono in pigiama anche, se c'è in pigiama, sì, vabbè, non è un problema, era. Ma la pizza te l'hai mangiata? Ma mangio la bocca piccante. Fatto, come hai sentito Michele, tu, ma così siamo la fai, c'è qualche, qualsiasi cosa, che hai di Google è macco, cioè, non mi permetterei mai, ma tu mi dici che sono sempre macco. Grazie comunque, Boh, mi dici sempre che sono scemo, cioè, ma hai sempre detto, secondo te sono scemo? Grazie, non ho detto scemo, ho detto grazie, basta. No? Guarda, c'è altro che lo dice la testimone, però guarda, tu sei macco, ovvero vero Antonio, guarda così. Antonio, però è vero, eh. Ascola, non rompere. Attento, germano, si scuccia dal nord della Sardegna, brecco. Che master? Come ti ho chiamato, vai? No, sto aspettando che mi chiami prima mio figlio, perché non so che la devo rientrare. Quindi è inutile che me la faccio preparare e poi magari quando la prenderò questa notte, brutta, non so. Guarda, però ti posso confermare, una squisitezza, buona veramente. Tu pensa che io non mangio mai il bordo è uno spettacolo. Oh, sembra in vita direi la birra. Ma allora mettete il coltello nella piaga. Cazzo, tu mi vuoi va. Cazzo, ma qua è voluto ma ti potrei qualcosa a bere. Ora mi ricubila che non naggio. Cosa metti, il coltello o cacciavite nella piaga? No, cacciavite. Insomma, poi giri, no, come regolando il... Vabbè, dai, vediamo un po' se mi risponde. Mi muovo, non ce l'ha con me adesso. Ma se faccio un'altra domanda, Pompone, come sta Simona? E cioè se mi rispondi male. Sta bene, tranquillo. Contento per lei, da? Franco Mari, andava, da? Vabbè, allora, ci vediamo, ce la beviamo. Mica, se vedi un giorno, io sono qua a piedi, solo di sabato ce l'ho la macchina. Ma un giorno ci vediamo, lì in zona salgo io. In un cavo, tutto già arrabbio, niente, no, come non detto, tutto chiuso. E però vuoi dire tutto chiuso, cosa? A parte il fatto che per me non esiste più niente, io bevo acqua e basta. Pure io la rubinetto. No, io che la bottiglia la bevo, l'acqua e il rubinetto ti lavi i bevi. Rubignarma, mi lavo. Ah, lascia stare, lascia. Lo sai noi cosa beviamo. Mi piace quel liquore che fai tu. Capito? Che fa marina, mangiamo due patatine, due rivette, e boh, due per rivette, bar, è finito il tempo del bar. Antonio Riserva va al bar, anzi al circolo va. Adesso c'è il tempo delle mele. Proponio, ma il microfono sa delta ce l'hai tu? Sì che ce l'ho. Secondo te cosa ti rispondo? Dimmelo tu. Perché sto già adesso, E via. C'è bene, mi. Vabbè, dato domani me lo porto a qua. Sì, c'è bene, te l'ho detto. Poi quello c'è la connessione per quella radio, perché lui ce l'aveva con la connessione del Galaxy. Il Galaxy ha la stessa connessione del Typhoon, capito? Quindi non fai altro che attaccarlo e lo usi, esce un bel forte, va bene. Infatti, dai, va bene. Se domani non me lo porta lui, ci vado, lo faccio un salto. E poi domani quando rientro dobbiamo stare in campagna, ma ok, entri tu Mario verso le 11 domani, 11 e mezza, perché a mezzogiorno vado in campagna e a fare ancora singhiozzo. Facciamo le prove, ma tu se va bene lo tiene, se no me lo torni, no, è stato corretto la verità, non c'è problema. Ma noto che Pompuglio esce bene, esce un bel bene quel microfono. Lo so. C'avevo qualcosa, lo singhiozzo. Stava a bere un bicchiere d'acqua, arrivo subito, riprende. Quello esce un bel bene, non bene, esce un bel bene col Savelta, glielo ho sempre detto io. KK? Dov'è Azzardo? Sai che c'ha questa voce da finocchio? Questa voce da finocchio, perché la tua più bella è? Vabbè, ma a me non è da finocchio. Che te l'ha detto, cosa c'entra? Scusa, di finocchi ce ne sono un sacco di tipi. Peruvino ciumano, peruvino ceto. Poi quello originale, proprio originale, originale è l'unroscio. Sì, ma dipende, se è a mincia o a culo. Non lo so, questo bisogna vedere. Io quelli che ho visto da poco in TV, per me sono tutti maschi, veramente, proprio tutti con le orecchine. Beh, nulla ne sanno quelli della partosse. Vabbè, guardi, hai visto che ha vinto il grande fratello, ciuccio, ma la camminata a Bale, zecca le gamboni. Non lavava in terra e si bruciava qui a terra che voglia sempre il gallo. Per carità, io certa gente la vorrei frustare. Per carità. Adesso tenete conto che non si chiamerà più Grande Fratello VIP, si chiamerà il Grande Fratello dei Finocchi. E mai lo è. Hai visto, gli altri sono le famose, ne hai molto due. Uno lo scrive, l'altro va fugato. Vabbè, ma quelli fanno di moda adesso. Se non sono così non piacciono più a nessuno. A me piace, a me non è inutile che tu mi vuoi corrompere, a me non mi piacciono, capito? Non mi piacciono. Io nelle fave non ne metto mai finocchi. Lo so che tu metti la mentuccia, ma è perché tu sei un uomo alfa, per quello che non ti piacciono. Amico di betta, ammazza bene l'aria. Te la metti alfa e betta. Antonello li ha conosciuti, no Antonello? Non sono un pazzo io. Ah, futidini, io so niente. Cazzo, ne ha una addosso. Che dico che domani non si ricorda neanche il nome. Io mi ricordo Antonello, ti ricordi? C'era Alfa in radio, Alfa, Beta e Gamma, ti lamenti? Che erano gli amici di Goccio, di Geronimo. Guido Gamma era uscito completamente di capo. Amici di Geronimo era, no Antonello? Non so niente io. Ma era zio Tigliatti. Ma era zio Tigliatti, ma troppo. No, io l'avevo andato un giorno lì, perché Geronimo, appena Geronimo abitava lì dove c'era via Taramelli, dove c'era allora la sezione dell'Escoradio, c'erano le poste, io sono andato lì e ha giunto lì che va vendendo dentro il giardino questa cosa di lamiera, cosa era, Guayana Beta, lo sportellone di Tobi Critubu. Poi l'ho sentito parlare, Antonio Geronimo, tu dillo mio Antonio Geronimo, brutto cazzo, brutto come Dio l'ha fatto cazzo. Sì, l'ho conosciuto, che lavorava agli uffici nei Turritane, a Porto Torres. Una sera sono andato, sono fatto le 6 ed era lì, con la casetta della miera, alto era, un chisimene tutta la ricocco. Quanto era brutto, mamma mia, sì, me l'avevo detto, perché io ero già nel settore allora. Eravamo sottoimpresa inizialmente, mi pare che ero con l'aerodepuratore sarda, l'aerodepuratore di carica, e lui mi aveva detto appunto che lavorava con l'ufficiale turistano, infatti mi era informato, effettivamente lavorava lì, ma non è che è durato assai. Sì, ma faceva ragioniere lì, mi lui. Sì, ragioniere se non appena faceva. Sì, vabbè, dice ragione che ho ragione. Perché comunque era, il padre era, come si dice, sicuramente era qualcuno che aveva qualche, che ricopriva qualche posto di prestigio, cioè quindi ce l'ha infilato lì. Sì, l'ho conosciuto il padre, l'ho conosciuto. Sì, era mezzo al settore, insomma, a quel settore che in quei tempi contava, adesso non conta più niente. No, no, sì, lo so che era ragioniere, però si occupava di altre cose, insomma, un po' di tutto faceva, Era più le commissioni che faceva che ragioniere. Gli scribacchini, come li chiamavo io, Comunque era una bravissima persona, faceva un bel relì, che sciuga, tanto faceva relì Antonio, per carità. È sparito, non so dove è andato, ma aveva detto una volta, l'avevo trovato a Sassari, e mi aveva detto che era a Roma, addirittura, che lavorava per conto del ministero. Figurati un po', Gordo, alla faccia di Romacco. Davvero, mi ha detto che lavorava, allora c'era Berlusconi, presidente del Consiglio, siccome lui era di Forza Italia, di quelli proprio malati. E io l'ho presa per buona, poi mi sono fermato ed era vero, lavorava nella segreteria dell'ufficio dei ministri di Forza Italia. Perché Marco, se so che è in casa, Dino! Sono quasi per andare a prendere a Gabriele, quindi mi stavo quasi preparando. Comunque io ci ho ripensato, adesso salgo su, metto l'acqua al fuoco, che due spaghetti me li faccio. Non me ne ha fatti nulla, i Rizzi non mi hanno saziato. Ma dove sei tu, in campagna? No, a casa sono, al monte. Non è vero, ero sempre, stavo guardando lo Smith, sì. Ho visto segnale, va bene. Solo che io ogni tanto cambio radio e quindi non arrivo più basso, arrivo più alto. Tu qua sei 920, Sto usando il Galaxy tipo Saturn Echo, però con la stessa frequenzimetro. Quanto te me sei arrivati? No, tu sei 30. Minchia, quanto di te sono? No, io sto usando 430. È arrivato lunedì pomeriggio è arrivato. Finalmente, dopo un mese, era tutto riallineato, mi ha cambiato un po' di cosettine, ma niente di che. Era una durata 10 anni. Pure di più. Questo l'avevo comprato la Walter T 10 anni fa e Fabrizio mi aveva cambiato il frequenzimetro perché si era bruciato gli ultimi due decimali. E non ho mai fatto un lavoro a questa radio. Ne ho approfittato che ho conosciuto questo tecnico incontinente, molto bravo e serio e onesto soprattutto, gliel'ho mandata e ho speso 80 euro in tutto tra andare e tornare e riparazione, ma me l'ha fatto nuovo. E ancora si trova qualcuno onesto? Guarda, onestissimo, tu figurati, l'avevo mandato il 140, avevo comprato un 140 da sistemare, c'erano delle cosettine che non mi piacevano e poi era tutto fuori frequenza, te ne butto le mani dentro, ma nuovo, me l'ho mandato e era tutto riallineato, tutto sistemato, ma guarda, uno spettacolo veramente bello esternamente e internamente, perché metto che era nuovo. Allora non l'ho pigliato, 35 euro e anche preso di 17 di trasporto. Perché funziona così, che molte volte basta avere due strumenti giusti e 10 minuti di tempo, però purtroppo il viaggio te lo devi pagare. Ma infatti gappa. Vabbè, però vedi, come dici tu, c'è ancora gente onesta. No, questa sono contentissima, infatti me la sono tenuta, c'è tutta la linea completa, me la sono tenuta, le altre le ho tutte vendute, tutte fatte fuori. Mi ho tenuto il Galaxy e la linea 430, non voglio più nulla, intanto una ne uso e va bene così, una carezza un baracchino, Sì, perché intanto alla fin fine uno ne usi, anche se ne hai 10, 12, cosa ne fai, cosa ne usi, 10, 12 assieme, alla fine poi il giorno che decidi di usarli magari non funzionano bene, i condensatori se ne sono andati a fanculo, non trasmettono, si spengono, mille errori, devi stare sempre, spedisci uno, spedisci l'altro, alla fin fine tutti i vizi di naghi prendi a quella di Zivini, a nuda, per fare quattro chiacchiere. Allora, birra non ne ho, vino c'è, ma non sono sicuro che è buono, devo aprire una giugana. Allora, per addolcirmi un po' mi sono mangiato due arance, non so se a voi piace, vaniglia, a me piace un sacco. E in più mi sto aiutando con una crema di whisky, bene va. Già va bene, arance e vaniglia sono arance di frusce. Cazzo, mi sapevo di sicurissimi. Cazzo, così il vino, così il vino, quello, come si chiama, il quello dolce, quello, non mi viene il nome adesso, il bracchetto. Cazzo, boh, così sono vino di frusce. No, quello è per signorine. Vabbè, per signorine va frusce, ma te si è, non è ciamba, Allora, lo so, dipende, lo senti di tu, pa signorina o tu lo senti di tu, pa frocio. Grazie che faccio la signorina, non va a te. Vabbè, dai, che salgo su, che mi metto l'acqua al fuoco, che ho fame. Ciao, vi abbraccio tutti, Tino, Claudio, Luca, Pomponio, eventuali ascoltoni. Ciao, ciao, non ve l'aggio più gana, ciao. No, ma non è che passi questa cosa, ragazzi, lui dice, la fa passare. Ciao, brutto porco. Sì, ci sentiamo. Lulu, non te lo so così. Non è utile, ti dico adesso sì e poi no. Ah, cacata nel culo, cazzo, sei impignato. Ma quei vermi mi sono impignati, molti sei impignato tu. Vabbè, dai. Ciao, buona cena, buona pentola e... Avanti, a popò, buona cena, riprendi popò. Vabbè, ciao, ciao. E anche io tanto sto uscendo, là. Sentiamo dopo al limite, ciao a tutti. Ciao, al barca, il barca. Ciao, Cla, ciao. E insieme a San Isidro da, ciao a Tino, che sta andando a prendere a Gabri, e ciao Antonio, un abbraccio grande grande, ciao. Comunque Lu, era buono quello che hai assaggiato a casa tua il vino, il giorno del tuo compleanno, quello era buono veramente. Vabbè, quello era il vino di Usini, ti credo era buono. Quello là, 2,50 euro al litro. Non è niente, non è niente. Per 2,50 euro è un vino buonissimo. A me però, sono a 3, capito? A 3 lo dà. A me 2,50. E 2,50 a te o a me è un vino buono. Era veramente molto gustoso, veramente molto molto buono. Se non vuoi, come sapete, faccio la 250 anche a te. E si conferma, non le sto bevendo, non ne ho a casa neanche il vino, nulla ciò, proprio zero di zero. Però se capita te lo dico, ma i 5 litri me li fai avere. Questo mi mandavo la crema di whisky, tu l'hai anche assaggiata, se ti ricordi, buonissima, Ho misurato il diabete, ce l'ho a 125 la glicemia. Ma è mai possibile io non mangio mai di glicagosa? Ogni volta me la misuro che la dice 80. È meglio qua, se sei contento. Si fa la manda a me. La sei in chili, 80, 90, 20, sempre perfetta. Guarda, non sale più di 90 non l'ho mai vista. Massimo 85, sempre. E tu prova a mangiare un po' di dotto e si alza, tipo se ti bevi 2-3 creme, avvi si alza, te la misuri dopo. E poi se ti bevi 2-3 creme, no? Faccio un esempio, poi ti mangi un dolce, avvi si alza. No, ma è stata che mi vivo pure la mucca con Franco. Vabbè, vuol dire che funzionava meglio la prostata. Ah, così è. Vabbè. No, vabbè, posso assaggiare qualche cosina così, ma se proprio c'è l'occasione, se no sono finiti i giochi. Cazzo, ma guarda lo diabetico è diventato, Giovannino. Se no non abbia preso la mamma. Diabetico, prende la pastiglietta e gli è salita anche a 270, mi pare. Cazzo. E vabbè, no, non si fa problemi, comunque lui va a camminare di notte, vabbè, lo facevo anche da prima, che andava a camminare. E adesso si è stabilizzato con la pastiglietta che prende. E vabbè, sono anche a mamma, che Giovannino va del 62, quanti anni ha? 58, così. Ma Giovannino chi è? Quello alto che vive a Sosso? Eia. Del 62. Quante anni è? 58 ne ha? Sì, del 62. Chi va in casa del 64, Carletto 69, Stefano 70 e io 74. Tutta a ruota, vamos? Siamo alla televisione prima. Babbo aveva più tregua. Io ho una sorella di 70 anni. Cazzo. Io ho cugine invece di 70 anni, anche di più. La più grande Rosaria, la moglie del vigile, ha 70 anni, sì, infatti mi pare a febbraio. 70 anni, il più piccolo sono io, fatelo conto. Il più piccolo sono io, sto andando a 61, quindi dai coglioni. Allora, ti dico un'altra cosa, tu sicuramente anni addietro c'è il televisore, più di uno sicuramente, e guardavi la TV. Quelli che hanno tanti figli, non hanno TV là, non sapevano cosa fare, allora infuravano i bani. Ehi, la sorella di mamma ne ha 11. 11 ne ha, abita il radio satellite, 11 figliori ciò. Vuol dire, ma vuol dire se trova la medivella, perché c'è la medivella era. Babbo, a quei tempi lavorava, aveva due officine, aveva questi altri cambi, della sera sempre impegnato, quindi quasi a uno ne ha tanto. Cosa indie, Casarella, non va più, fuggito. Casarella, Ah, Pompone, è sparito. Non so, se non è andato a mangiare. Facciamo a Luzzo, ma a me non mi riposo, non mi intendi, mi avrà squarciato, ha attenuato, No, me ci sei. Sei no. Offeso, vabbè. Tanto facciamo solo e bevo la camera di whisky, così impara. No, è andato a mangiare, è andato. No, molto bene sta radio. Bene, bene, bene. Cazzo, guarda, stavo bene, questo... come si chiama? Questo alimentatore è un bombo. Va benissimo, ma proprio bene bene bene, meglio di quelli cinesi, che tu non è cinese, vabbè pure su Bazzinetti, però la scheda è diversa, è più massiccia, te lo posso anche dimostrare se vuoi, ce l'ho a casa l'altro, è più fatta male l'altra scheda che ho a casa, vabbè. Il problema è che la ventola è molto rumorosa, cioè la sento troppo, poi adesso l'ho spenta. Ehi, quello che c'è tu, c'è la ventola dietro, quelli invece che compri che hanno il telaio, il tesse fine fine, piccolo piccolo, quelli c'hanno la ventola sopra, capito? Sì, sì, ce l'ho anch'io, 50 ampere, è un bel più grande, è un bel più grosso, è fatto meglio di quelli lì. Io la ventola ce l'ho su, guarda, ti ho mandato la foto, cazzo di gatto, lui gli ha mandato la foto, ce l'ha su la ventola. Invece il mio non ce l'ha su, ce l'ha dietro, come gli alimentatori normali, capito? Ed è ancora meglio di Ghisciu. No, questo è come quello che c'ho io, l'altro. Vedi, questo è come quello che c'ho io. L'altro, quello che invece uso con le radio, è ancora più grande di questo, è molto più grosso, c'è la ventola dietro, capito? È molto silenzioso. Quello è rumoroso, che fa la ventola sopra. Vabbè, non è rumoroso, si sente un bel. Vabbè, tanto c'è la temperatura, già sono abbastanza basse, dai. Non le fa niente se la tengo spenta. Sono uscito a portare organica, se la via un berretto dei guanti, balia a gennaio. Oggi si è fatto un bel freddo. Molto freddo, sì. Sono per consegnare quel computer, come ti ho detto, tipo mi contento. Cioè gli ho chiesto, di tornare ai 120 euro per cambiare il display. E ne ha giubilato una metà. Quindi è rimasto contento. Ma glielo ho preso. Ha speso la metà. Quelli a cola, la lampada, quelli che c'hanno l'inverter. Ho capito. Già me l'hai spiegato, Allora, io ho tirato appena, ho messo a 2,5 al Michigan, troppo alta così e lui, va bene. Come è forte, come è squillante. Va bene, lasciala fare così. Ormai io dico uno su anni così. È un bel squillante. No, gli ha fatto un lavoro eccezionale. Poi infatti sono originali, non va più di 40 watt in AM, lo so ben sì. Infatti io ce l'ho 20 watt con picchi a 30, 35. Però se metto il carriere massimo non sale più di 40 watt. Così è tranquilla, non la sfrutto. È più che sufficiente. Ecco mano del video, guarda. Tanto queste radio devono andare a 40 watt in AM, 35 e 40 watt, non te le fai di dire un burro a 100 watt, ma poi a grebbi, come se venire di romorbo l'Alzheimer. Ma cosa, non c'è la bombolina oppure, sparito, la bombolina? Ci c'è la Ganzardo. Ah, Ganzardo di sabato, è per anche da Travaglieni, ormai lo sabato da Ganza. Guarda, ti ho mandato un video, controlla. Aspetta, lo guardo, mi avevo messo le piccini. Aspetta, mi segnale tu. Contro il più sono. Ehi, ehi, contro il più sì. Antonio mi arriva sul 3 proprio. È uno dei più forti. Mi sa quante Gianni è. Ma mi sa che mi arriva più forte Antonio. Vabbè, ma loro sono lì, io sarò lontano, quindi è un ottimo segnale. E poco ci vuole mia al 3. Sì, e beh, claro, io parlo di Ligue, non è che di cui parli. Arrivi lì, non è che uno arrivi 9 e di cui arriva a 9.30, no? Ma io ecco, sapi Google, ok Google, sapi, mi ha messo, vabbè. Tutti i fuggiti di Socra, ma c'è altro hai? No, devo accenare. Guarda lui che ha abbassato per appena la potenza. Vedi un po' se va meglio. Sì, tra in mezzo sì. Sì, praticamente proprio alle gomme del 3, dai. Poco più avanti del più. No, la radio sta dicendo lascia per il segnale, non mi interessa. Siccome mi ha detto che nel messaggio mi ha detto che è un pochino compressa, adesso mi hanno compressa. No, va bene, ma c'hai anche più watt però. No, li ho abbassati, avevo 20 watt, adesso l'ho messa a 15. Vabbè, lasciamo stare così, è perfetta. Lasciamo stare così, va bene, se no bongardesimi non è un problema, tanto non è che dobbiamo arrivare all'impicco, basta ci sentiamo, già va bene. No, devo ancora mangiare lui, anzi, ti lascio, vai. Vado a mangiare un boccone, se ci siete dopo rientro, vai. Tanto sicuramente entra Rattino, Antonio, Bombolo, vai. Se ti fai sentire ci sentiamo dopo. Sto là, no, 4.30 no, non l'ho mai visto, ma cazzo, lo sto qua, no? No, non è questo, 4.30, boh. Qua c'ha il display arancione. Non guarda il 4.40, non cambia nulla a me. No, come un uomo d'acqua? Ah, eccolo qua, forse è questo. Lascia vedere. Sì, PS430S. Eia, ce l'hai la foto, se no te la mando, io te la mando lui. Io c'ho tutta la linea completa. Sì, l'ho visto, è uguale. Ma lo squelch, vabbè, mi ha detto che funzionava lo squelch. Poi non me la fa zoomare. Sì, è bellino, guarda. Sì, c'ha praticamente c'ha 3, 6, 9 tasti gialli. La vedo gialli. Sono gialli liberi gialli. Ti ho detto quello 4.30 o 4.40. Che gialli, aspetti, mando la foto, aspetta. Claro, ma c'è la manopa, c'ho quei tasti, io li vedo gialli, su giallino. Lo giallino, vuol dire che su ripristina nicotina e l'altro, è tutta grigia, normale, come il 4.40, che è giallino. Allora guarda, ti dico anche che c'ha 1, 2, partendo da sinistra, 1, 2, 3, 4, 5 tassini. Ma i tuoi gialli non lo vedi, vuol dire che sono sporchi, che sono consumati, sono grigi. I tastini della tastiera sono tutti grigi, non ce n'è gialli. Forse come l'ho fatto la foto, dai, sì, comunque lo vedo qua, l'ho visto, sì, bellino, bello, sì. E poi ne ha altri 5 sotto dove ci sono i potenziometri, dai. Poi non so, guarda, sono quegli altri a fianco, è bellino, bella radio. Beh, lascio un bel bene, cavolo. Non ha driver lì, è tutto a potenziometri come 4.40. Va bene, ti lascio che vado a mangiare un boccone, ok? Vai, già te me vado un po' nel divano, dai, lascio acceso qua. E sentiamo dopo. Via, capra.